il forum di oggi apre una serie di lavori e una serie di riflessioni che quasi ogni anno facciamo sulla base dell'esperienza di Peppino in passato, che era quella, diciamo così, di soprattutto creare la controinformazione in Sicilia. Quindi diciamo che la figura di Peppino continua a crescere notevolmente. Forse crescono un po' meno le notizie che lo riguardano, perché io penso che, a parte le cose che quasi per dovere d'ufficio i giornalisti devono fare, nella ricorrenza non se ne parla più poi per il resto. Vabbè, a parte, diciamo, queste considerazioni preliminari che ho fatto, il problema sulla libertà di stampa oggi lo sapete che è abbastanza grave. C'è voluto il V-Day di Beppe Grillo a ricordarci che siamo agli ultimi gradini per quel che riguarda la libertà di informazione in Europa e che tutto appartiene a un circuito assolutamente controllato. Il nostro modo di fare controinformazione è invece di andarci a cercare la notizia tra la gente. Comunque possiamo estendere il discorso successivamente. Io oggi ho il piacere qua di avere Riccardo Rioles, il quale continua questa attività di controinformazione così come l'ha fatto con i siciliani, continua a farlo con Casablanca, che è un giornale che mostra forti difficoltà di esistenza. Comunque Riccardo, ti passo la parola se vuoi parlarne un po' tu. Anche per questo l'hanno ammassato, perché Peppino non era affatto uno inutile perdente, era uno che faceva danno, e faceva danno perché parlava in italiano, nel linguaggio della gente. Radio Out faceva parte della FRED, Federazione Radio Democratiche Italiane, che contava 250 radio libere in Italia. Allora Berlusconi non c'era, in quel periodo c'erano queste 250 radio più o meno di sinistra, e al nord il Partito Comunista possedeva 6 televisioni locali. Stiamo parlando prima di Berlusconi. Che fine hanno fatto? Bene, le televisioni del Partito Comunista sono state vendute alla prima occasione, perché tanto c'è la RAI, c'è il Corriere, c'è l'Unità, e cos'è questa televisione? Che vuol dire? E quanto alle 250 radio, quasi tutte hanno chiuso negli anni successivi, semplicemente che non riuscivano a farsi ascoltare. Alcune che sono riuscite a trovare un linguaggio professionale e popolare non solo hanno continuato, ma addirittura sono diventati leader nel loro mercato. Io penso a Radio Popolare di Milano, no, una delle poche che ha saputo fare il salto di qualità. Ma la sostanza è questa: è arrivata una nuova tecnologia, la radio libera, l'emittenza libera. I compagni ce ne siamo accorti, però l'abbiamo trattata male, da dilettanti. Quelli che l'hanno trattata bene, o come Radio Popolare hanno fatto un ottimo lavoro per il movimento, oppure come Peppino sono stati ammazzati perché non si poteva tollerare la loro esistenza. Io ritengo che siamo più o meno nella stessa situazione, solo che invece delle radio e delle televisioni libere oggigiorno c'è internet. Adesso passo la parola a Valerio, che già l'anno scorso è stato con noi per dibattere più o meno sui movimenti del 77. Valerio Monteventi ha vissuto l'esperienza di Radio Alice, oggi lavora nell'officina dei media indipendenti, vi parlerà un po' lui di, appunto, di media indipendenti, se ne esistono o meno. Ma intanto occorrerebbe lavorare perché gli strumenti di comunicazione a disposizione dei movimenti proliferassero, ce n'è molto bisogno. Io parto dal titolo di questo incontro, che fa riferimento alla informazione, alla controinformazione negli anni 70, e cerca di fare un parallelo con la situazione odierna. E parto da una cosa che in questo momento mi sta molto a cuore. La città di Bologna, io sono di Bologna, negli anni 70 era famosa a livello internazionale, a livello europeo, per gli asili nido, che venivano portati ad esempio come fiore d'occhiello di una buona politica di amministrazione pubblica rispetto a un tema come quello dell'educazione. Ora, da questo punto di vista, non è che i media non abbiano nessuna responsabilità. Certamente la politica ha una responsabilità molto forte, ci sono dei partiti che su questo hanno costruito le loro fortune politiche, E oggi viviamo in un paradosso per cui quelli che hanno perso le elezioni cercano di rincorrere quelli che le elezioni le hanno vinte, e nelle città dove sono più forti fanno le stesse cose che fa la Lega nei suoi territori e propone le stesse medesime soluzioni. Ma i media delle responsabilità ne hanno. Io questa mattina ho preso Repubblica, ho guardato la cronaca di Palermo e ho visto una modalità di fare informazione rispetto ai temi della città abbastanza normale. Se vi facessi vedere la cronaca di Repubblica di Bologna, vi trovereste nella condizione per cui a Palermo tutto va bene, a Bologna è una città che assomiglia a Beirut, del dibattito politico, dello scontro politico e degli interessi politici. Ora, questi che sono stati temi che probabilmente ci hanno visti assenti come realtà di movimento, penso debbano diventare una nostra modalità di intervento comunicativo. Dobbiamo rivolgere la nostra iniziativa di controinformazione anche su questioni come queste, perché questa battaglia anche culturale per far sì che non passi una logica per cui la paura del diverso diventa l'elemento fondativo di una nuova soggettività politica che ha un certo tipo di successo, è un nostro problema. È un nostro problema perché poi vivere i territori in un modo piuttosto che un altro è una cosa non secondaria per chi vuole fare iniziativa di movimento nei confronti dei soggetti più deboli. Da questo punto di vista oggi vediamo tutta la sproporzione tra la potenza dei media ufficiali e la forza comunicativa di strumenti come la televisione e la nostra pochezza. Molte delle esperienze giornalistiche, io ho fatto parte anche di alcune esperienze di questo genere, la nostra città, insomma, ho lavorato a giornali indipendenti, sono finite perché sono fallite dal punto di vista economico, perché i costi economici a un certo punto ci hanno ammazzato. Quindi una parte delle parole che ho sentito prima sono parte della mia storia, insomma, anche quotidiana. Però attraverso appunto questi strumenti anche poveri il tema della comunicazione l'abbiamo voluto mettere al centro della nostra iniziativa politica, perché riteniamo per esempio che i movimenti abbiano un'assoluta necessità di affrontare in termini adeguati questa questione. È fondamentale per l'iniziativa politica e sociale e va data assolutamente l'attenzione che merita. Adesso, dicevo, passo la parola a Marco, che è della mitica radio Onda Rossa di Roma. Dico mitica perché Peppino nel marzo del 78 si recò a una manifestazione di Roma e l'ho visto ritornare con un sacco di registrazioni di radio Onda Rossa. Molte erano addirittura registrazioni di assemblee di operai di 5-6 ore che non finivano mai. Sì, e per cui era anche quello un modo di fare informazione un po' diversa, cioè nel bene o nel male un minimo di circuito tra le radio di allora si era creato. Marco, parla tu se ancora la radio esiste, se quello che fate eccetera. Sì, grazie, io farò un intervento molto ridotto sia per mie ragioni personali, che sono arrivato infebbrato, purtroppo non ho retto la primavera siciliana, e sì, anche perché in realtà sono leggermente emozionato e imbarazzato dall'avere per esempio Valerio qui a due passi da me. Radio Onda Rossa è una radio che nasce nel 77, quando perlomeno io che vi parlo avevo 3 anni, insomma, forse qualcuno che sta qui a questo tavolo ha avuto una parte un pochino più attiva in quel movimento e in quell'ambito. Due parole sulla storia di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa nasce nel 77 come tante altre radio di quel periodo, come tanti altri esperimenti, come la stessa radio militanti, e essere una radio soprattutto sostanzialmente priva di qualsiasi tipo di finanziamento. Buongiorno, io mi chiamo Liri Abbate, sono un giornalista dell'ANSA e mi occupo di criminalità organizzata nel meridione d'Italia, diciamo in particolare della Sicilia, della mafia. Racconto non solo la cronaca, ma anche molti aspetti che ci stanno dietro la cronaca e gli intrecci con la politica e alla criminalità organizzata. Perché ancora oggi purtroppo l'informazione nel meridione d'Italia, non parlo soltanto in Sicilia, nel meridione, dalla Campania, in Calabria, in Sicilia, è malata. È un'informazione che non è informazione. Vi racconto nel fattarello della giornata. Ma questa cosa e questa malattia non è causa dei giornalisti. I giornalisti del meridione sono bravissimi. Riccardo vi raccontava prima soltanto alcuni esempi di giornalisti siciliani che andando via fanno delle grandi cose. Il problema qui sono gli editori, sono i padroni dell'informazione. Il problema qui è chi gestisce l'informazione, e cioè il potere politico, il potere criminale, che purtroppo la fa da padrone sui mezzi di informazione. Ecco, vedete, a 30 anni dalla morte di Peppino Impastato, quello che ci viene in mente, mi viene in mente questa grande sconfitta, ve lo ripeto, una grande sconfitta dell'informazione, ma soprattutto dei siciliani. Gli consentì un po' di stringere fene a quella che era la grande fioritura di televisioni ed emittente libere. Ci fu una persona, anzi una società di persone di Partinico, che tra le pieghe di questa legge individuò che si poteva anche creare una televisione, diciamo così, al servizio di un'associazione culturale. I limiti di queste televisioni, che si chiamano comunitarie, erano che bisogna trasmettere l'80% credo di produzione propria e nello stesso tempo solo 3 minuti di pubblicità l'ora. Ci fu, ripeto, un gruppo di persone di Partinico che chiese questa lunghezza d'onda per un'associazione. Per parecchi anni c'era presente solo un monogramma e questa cosa non funzionava, è un monogramma in cui era scritto teleiato, e intorno al 2000 al 2002 ci fu questo tizio qua che vedete con i baffi, che si chiama Pino Maniaci, il quale rilevò questa televisione e piano piano l'ha fatta diventare quella che è la televisione più ascoltata della zona. Prima di raccontare un po' quella che è l'esperienza di Teleiato, una puntualizzazione è d'obbligo. Molto spesso Teleiato, sai benissimo Salvo, è stata associata a Radio Out o a Peppino Impastato. Due cose completamente diverse, due persone completamente diverse, perché Peppino Impastato è stato un grande, è stato l'apripista di una informazione. E forse io più che altro ho seguito un po' l'insegnamento, visto che è da anni che Salvo Vitale ci viene a fare scuola, e per questo io, visto che continua con Teleiato, anche se oggi saltuariamente, ma solo perché è anziano, vecchio, ci si riacchiana la scala, siamo al secondo piano, e abbiamo due piccole stanze e lui vuole il salotto comodo, purtroppo ci può demorare su una seggia e quindi viene saltuariamente quando gli è possibile. Su alcune cose non sono per niente d'accordo, cioè questo atteggiamento come se si partisse da zero, qui non si riparte da zero, perché a livello territoriale c'è troppa carne al fuoco. Ci sono tante professionalità, ci sono tante militanze, ci sono tanti impegni di tantissime persone. E quando sento solo lamentare o dire da dove si comincia, mi incazzo notevolmente, perché qua ci sono persone che da 30 anni si impegnano su questo fronte, che producono, che fanno, che lottano. Scusate. Scusate, siccome ho preso la parola, non vorrei che me la toglieste. Io sono una persona, dicevo poco fa, c'è poco da abbattere la testa. Io sono una persona, per quanto mi riguarda, che da 30 anni do il fondo schiena su questo fronte e non permetto a nessuno che mi si provochi. Io vengo dalla scuola di Pippo Fava, 25 anni, non abbiamo scherzato. Non abbiamo scherzato! Se la stampa ufficiale o la politica ufficiale nazionale non ne vuole tenere conto, cazzi suoi! perché il territorio, il nostro in particolar modo, ha bisogno di inchieste, di approfondimento. C'è bisogno che noi diciamo i nomi, cognomi, numero di telefono, ci mettiamo la fotografia dei mafiosi, cosa che è un quotidiano, che, perché da qualsiasi parte io mi girassi a Catania, ma perché non fai un giornale? Ma perché non facciamo il giornale? E abbiamo bisogno di un giornale. Allora tu dici, bene, c'è tutta questa richiesta, vediamo un po' che cosa vogliamo fare. Allora, prima di presentare il progetto faccio un giro di telefonate. Facciamo una cooperativa, facciamo un'associazione, così ci facciamo. No, nessuno. Allora il consulente mi dice, guarda che lo puoi presentare da sola. Lo presento da sola. Mi arriva dopo tantissimi anni, mi arriva questa cosa, questi 70.000 euro, e io mi ritrovo con la necessità e l'urgenza di registrare la testata, di registrare la casa editrice, e quindi mi sono trovata proprietaria, editore, direttore, ma non, cioè, ma una situazione come... Dopo che abbiamo fatto il giornale, ho fatto di nuovo il giro di telefonate dicendo, amici, il giornale l'abbiamo creato, riuniamoci, lo gestiamo insieme. Risultato, tutti quelli che volevano il giornale non ci sono. Si chiama compa.org, è un portale web nato a dicembre e che è stato e che è tuttora il nostro tentativo di trovare una strada per poter, noi lo diciamo, interconnettere e condividere conoscenze. Noi crediamo che nella generazione, cioè, sia questo mito della generazione dei ventenni, trentenni, scusate, estremamente alfabetizzati rispetto all'utilizzo dei nuovi media, di internet e delle nuove tecnologie. Noi ci rendiamo conto che non è vero, che spesso il web, questo strumento di cui anche oggi si è parlato, è utilizzato e pervertito nella sua forma più banale. C'è stata un'esperienza importante, ne parlavamo prima delle esperienze legate a Genova, pre e post Genova, che è stata Indie Media. Indie Media improvvisamente è esplosa, o meglio è implosa, in Sicilia in maniera terribile tra l'altro, probabilmente perché veramente non c'è stata la capacità, e non ne faccio una polemica, attenzione, cioè non c'è stata la capacità di capire che i mezzi di informazione devono essere vissuti quotidianamente e si devono capire le trasformazioni. C'è bisogno di ripartire oggi da analisi e approfondimenti che non possono prescindere dalla condivisione, cioè nessuno ha la verità. E niente, e questo insomma, ho letto Compa, in realtà è un network dove al suo interno ci sono web radio, tra cui i compagni di Radio Resistor, che sono un piccolissimo collettivo di scienze politiche, che però da ieri sono qua e documentano tutto quanto viene raccontato all'interno del forum. Questo è quello che in questo momento, secondo noi, è il punto di partenza per cercare di riattivare nei territori un discorso che rilancia anche i movimenti.